hai capito. Ti sta dicendo cose che non sai se sono vere. Se ascolti non pensi, se pensi non ascolti. Come un moderno San Tommaso in cerca di un riscontro. Racconta favole che grandi bambini vogliono ascoltare. Vivere a notti chiusi è facile, tra le bugie delle frasi che ascolti quello che vedi e ti nascondono immagini, omologando il pensiero comune e ridipingono la tua realtà, raccontandoti come le favole. Sei abituato a lasciarti guidare, a non fare niente, a sopportare, gettato in un mare di bianche menzogne, affoghi nel vuoto, ma rimani fermo, non vedi che è solo fumo negli occhi che abbaglia i tuoi giorni e annebbia il ricordo. Stacca la spina da questa realtà, prova a capire che cosa non va. Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco degli Artemista, Vivere Immobile. Come si chiamava questa canzone? Questo pezzo si intitolava Ad Occhi Chiusi e anche questo a livello del testo era molto importante per noi, perché trattava di un tema che oggigiorno tante persone tendono a sottovalutare, esatto, il tema mediatico fondamentalmente. Sì, l'informazione, per cui alle volte diamo per scontato che quello che ci viene detto dai media è la realtà, e alle volte ci accontentiamo un po' di quello, quindi non si va ad approfondire, mentre in un momento in cui abbiamo internet che è una fonte inesauribile. Ma alle volte insomma un po' più di ricerca gioverebbe. Bisognerebbe guardare un po' oltre al nostro naso. Quali ora i progetti per il futuro prossimo della band? Beh, progetti sicuramente suonare, quindi portare il nostro disco in giro e farlo sentire insomma un po' in tutto lo stivale. E sicuramente parallelamente a questa promozione ci sarà un lavoro presumibilmente su un altro singolo, questo penso inizio estate, niente, singolo quindi. Che dobbiamo ancora scegliere immagino con videoclip. Certo, siamo al quinto brano. Cosa scegliete di far sentire? L'uomo nello specchio. Thank you. Il tempo come sempre vola, noi siamo quasi alla fine di puntata. Vi ricordo i contatti per le segnalazioni, scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it, ricordo www.radiorcs.it per info su Radio RCS, Rock Legends e streaming per ascoltare la nostra radio attraverso il Media Player. Grazie agli Artemista per la partecipazione. A questo punto a voi la parola per i contatti web ed email per informazioni sul vostro disco e alcuni live in programmazione. Innanzitutto grazie a voi per lo spazio. I nostri contatti, il nostro sito è www.artemistaweb.it, da lì si può vedere il nostro video, ci sono tutti i collegamenti ai social network, quindi Facebook, Twitter, MySpace, YouTube e anche il nostro indirizzo di posta elettronica che vabbè è un generale info@artemistaweb.it. Brano per chiudere questa puntata? Rivoluzione Stasi. La rivoluzione Stasi vuole lanciare un messaggio, anche questo molto chiaro. Molto chiaro a noi, noi in generale, noi italiani, dobbiamo un po' capire dove vogliamo andare, che direzione vogliamo prendere. E quindi, insomma, vi lasciamo con un po' questa domanda. Noi nel frattempo ne approfittiamo per lanciare un appello, se ci dovesse essere qualche musicista all'ascolto della zona che si sentisse affine a quello che facciamo, noi siamo molto disposti a condividere delle date anche qui in zona, insomma ci piacerebbe molto. Uno scambio di date, insomma. Esatto. Noi veniamo a suonare con voi, voi venite a suonare dalle nostre parti. Ottimo, Gianluca e gli Artemista vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana. Ciao!